Sura 88, l'avvolgente, Meccana numero 68, di 26 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ti è giunta notizia dell'avvolgente? L'avvolgente, senza alcun dubbio, è l'ora del giudizio. Il termine al-ghashiyah, che abbiamo tradotto con avvolgente, significa coprire, avvolgere, attaccare il nemico da ogni lato. Ci saranno in quel giorno volti umiliati. Dispossati e afflitti. Che bruceranno nel fuoco ardente. E saranno abbeverati da una fonte bollente. Per essi non ci sarà altro cibo che il darì. Darì, pianta spinosa e amarissima, tipica dei deserti. Che non nutre e non placa la fame. Ci saranno in quel giorno volti lieti. Soddisfatti delle loro opere. In un giardino elevato. In cui non sodono discorsi vani. Colà vi è una fonte che scorre. Colà alti divani. E coppe poste a portata di mano. E cuscini assestati. E tappeti distesi. Non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati. Sul cielo e come è stato elevato. Sulle montagne e come sono state infisse. Sulla terra e come è stata distesa. ammonisci dunque che tu altro non sei che un ammonitore. E non hai autorità alcuna su di loro. Non hai autorità alcuna su di loro, nel senso di non hai nessun potere per costringere chi non crede a farlo. Per quanto riguarda il concetto di autorità letteralmente inteso, si consideri che la sura è meccana, pre e gira, e che Muhammad, pace e benedizione su di lui, a cui si rivolge il sacro testo, non era ancora a capo di una comunità organizzata di credenti. Quanto a chi volge le spalle e non crede, Allah lo castigherà con il castigo più grande. In verità, a noi ritorneranno. E allora spetterà a noi chieder loro conto delle loro azioni.